Mix 24 di Giovanni Minoli. Prendere l'intera esperienza sociale del college e metterla in rete. Non c'era nessun hackeraggio, le persone stesse avrebbero fornito foto e informazioni. In un mondo in cui la struttura sociale era tutto ciò che contava, era l'idea del secolo. Attraverso i mi piace su Facebook è possibile capire razza, sesso, quoziente intellettivo e altre informazioni personali dagli utenti del social network. L'85% della pubblicità online nel 2016 è finita nelle mani di Google e Facebook. Facebook ha 1,7 miliardi di iscritti, possiede WhatsApp con oltre 1 miliardo di utenti e Instagram. Facebook sa tutto della nostra vita privata, ci forniscono contenuti e servizi gratis, in cambio noi siamo disponibili a regalare una parte di noi stessi. Sara Bentivegna, docente di teoria delle comunicazioni all'Università La Sapienza di Roma. Ecco, professoressa, come abbiamo sentito nel blog, Facebook sa tutto della nostra vita privata, ci fornisce contenuti, in cambio noi siamo disponibili a regalare una parte di noi stessi. Proprio così, no? Beh sì, innanzitutto appunto da quello che ho sentito si parla di un regalo che ci fa Facebook. In realtà appunto l'economia del dono anche nei social media non è esattamente quella che poi riproduce Facebook. Facebook non ci regala niente, Facebook in realtà baratta appunto le nostre informazioni con dei prodotti che non ci fa pagare. Ma in realtà noi li paghiamo concedendo appunto parte di noi stessi. La profilazione sempre più accentuata degli utenti diventa quindi uno strumento di controllo sociale progressivamente sempre più invasivo, è così, no? Ma questo sì è un tratto che sta emergendo con sempre maggiore chiarezza, perché evidentemente poi ha un suo risvolto di natura commerciale, pensi certo. Alla pubblicità per esempio, dall'altro anche un risvolto di natura politica, perché vengono mandati messaggi ad hoc a soggetti con certe caratteristiche. Ecco, dopo questa profilazione Facebook ha annunciato anche una sua prossima tappa con un'entrata sul mercato della produzione, accentuando diciamo la gara alla convergenza progressiva dei media e dei contenuti. Che cosa cambia? Cambia che in realtà appunto Facebook è un incredibilmente, come dire, accelera incredibilmente questi fenomeni. Il fenomeno della convergenza in realtà era già presente da anni, ma con tratti appunto con andamenti non sempre così netti e chiari. In realtà Facebook sta diventando un medium totale, potremmo dire, certo. Perché da un lato consente appunto le relazioni tra soggetti, consente la produzione, la condivisione di contenuti e consente anche appunto a questo punto di arrivare ai nostri salotti e di entrare nello schermo tradizionale che un tempo appunto era appannaggio poi di altre televisioni, cioè sì. Generalista, cioè sostanzialmente diventa un editore globale. Sì. Ecco, ma nella bolla di Facebook aumenta l'offerta o aumenta la segmentazione ulteriore degli ascolti con questo fatto della profilazione individuale? Ma questo in realtà è un problema, nel senso che da un lato sembrerebbe aumentare l'offerta e la libertà di scelta per i singoli, nello stesso tempo però questa libertà e questo ampliamento dell'offerta rischia di ridursi ad una bolla dove i soggetti appunto non se ne rendono neanche conto di ciò che è fuori, perché la profilazione e l'offerta mirata è tutta interna. Entriamo in contatto soltanto con certi contenuti e non con altri. Senta, professoressa Bentivegna, per dirla semplicemente, Facebook e gli utenti di Facebook quindi se la cantano e se la suonano tra di loro in modo sempre più autonomo, convinto che sia il tutto quello. E questo è il grande rischio che noi stiamo correndo effettivamente, di avere tante bolle che non si vedono e non si parlano e quindi che appunto c'è una sorta di solipsismo. Senta, perché i dati del consumo, gli chiedo questo, perché i dati del consumo di news nel mondo avanzato soprattutto sono sconvolgenti. Facebook è il numero uno dove la gente si informa, nessuno ha il controllo né sulla qualità né sulla veridicità delle news, quindi è un punto di non ritorno praticamente. Ma sì, anche perché appunto su Facebook, mentre noi stiamo controllando e chiacchierando eventualmente con i nostri amici, appunto ci appaiono delle notizie, delle informazioni, sicuramente molto spesso c'è chi è pronto ad analizzarle con i criteri tradizionali, mentre invece ci sono anche molte altre persone che li prendono appunto nel flusso per buoni subito. Sì, ovviamente. Senta, Zuckerberg sembra, così ha detto, sembra interessato a candidarsi alle presidenziali americane del 2020, quindi siamo un po' alla realizzazione dell'incubo di Orwell. Beh, diciamo, io spero che Zuckerberg dove trovi, come dire, continui a trovare piacere nel fare altre cose, francamente. Però ecco, sì, potrebbe darsi che certo dopo questi passi, come dire, la tentazione sia fortissima. Beh, ecco. Sì, sarebbe molto forte la tentazione, sarebbe anche appunto il nuovo giovane manager che arriva in politica, un ennesimo caso. Ci siamo, ci risiamo. Senta, Trump in effetti però ha vinto le sue elezioni con una campagna elettorale sostanzialmente fondata proprio sulla profilazione personale di 200 milioni di americani. Quindi, che piaccia o no, questa è la direzione della nuova democrazia. Anche se in realtà appunto l'uso di Trump, dei social media, della profilazione, degli strumenti appunto più moderni, probabilmente verrà anche riletta e ridimensionata da qualche tempo. In realtà Trump ha fatto un uso molto più sottile di quanto si creda. Appunto. Trump è riuscito in realtà in un'operazione vecchia e nuova allo stesso tempo. Trump ha imposto l'agenda, ha fatto questo e lo ha fatto con le nuove opportunità comunicative. La Clinton ha sempre rincorso e questa diciamo che è una caratteristica delle campagne elettorali tradizionali, ma che Trump ha giocato con i nuovi media. Senta, quindi però per chiudere, Zuckerberg in questo scenario, se davvero si presentasse con questi strumenti a sua disposizione, non avrebbe tanti rivali, non avrebbe tanti rivali, no? No, non avrebbe difficile. Tanti rivali, però diciamo che siccome appunto queste trasformazioni sono molto veloci, non è detto che non tra qualche mai. Anno non ci sia un rivale. Sembrerà vecchio quello che vuol fare Zuckerberg, va infatti. Bene. Ecco Mario, uno scenario abbastanza pericoloso, Zuckerberg verrà fermato, ma da chi può? Chi può avere la forza di fermare Zuckerberg? Nessuno. La rivoluzione. Ah, vabbè, la rivoluzione armata però. Invito a rileggere Io Robot di Asimov. Sì, e cosa dice? Dillo per chi non ce l'ha a casa. A un certo punto c'è la rivoluzione. Siccome quando non se ne può più, esatto. Zuckerberg è oggi la metafora di un robot che si presume molto intelligente. Ecco. Diciamo quindi... che oggi Tremonti dice che chi ha paura di Trump dovrebbe avere molta più paura di Zuckerberg. Sì, sembra che ha ragione. Ho letto e condivido ovviamente. Perché e intanto, intanto in attesa di vedere Zuckerberg che fa tra Trump e Obama, la guerra in effetti è fatta a colpi di Twitter e di Facebook. Sì. Telegiornali, cosa sono? Niente. Spie e algoritmi. Spie e algoritmi. Software. Esattamente. Software e hardware. Ecco, tutto questo però ha un'influenza, l'abbiamo detto all'inizio, anche sulla produzione. Sì. Perché se Facebook entra nella produzione, naturalmente si aprono degli orizzonti diversi. Riccardo Tozzi, che è il fondatore e presidente di Catlay, una casa di produzione cinematografica e televisiva, che ha firmato successi come Gomorra, Romanzo criminale, il film di Salvatore, Se non ho paura. Ecco, dottor Tozzi, negli ultimi 10 anni è cambiato completamente tutto il mercato della TV, dal duopolio passando per la Play, siamo arrivati ai player globali come Netflix, Amazon e adesso appunto anche a Facebook. Tutto oro colato per voi produttori? Francamente sì, è un fenomeno straordinario. Devo dire completamente sorprendente, non ce l'aspettavamo. Ed è una specie di sogno che si realizza, cioè, c'è una moltiplicazione di piattaforme e tutte hanno bisogno di contenuti e domandano contenuti e contenuti di alto livello. Netflix, quindi è un campo straordinario, una grande sfida. Netflix e Amazon dicono di voler localizzare il loro prodotto. Quindi, secondo lei, sarà un'opportunità, non un modo di eliminare le differenze culturali dei singoli territori? Perché quando si localizza è una parola sempre un po' ambigua. Ma direi di no, perché quel tipo di prodotto, che è la nuova serialità, ha un modello di racconto che è nel suo linguaggio internazionale. Ma nei contenuti, nei riferimenti culturali è assolutamente locale. Ed è quel che si cerca, direi che sono produzioni con una forte impronta caratteristica, quindi con un imprint culturale molto preciso, che però abbiano il linguaggio della serialità internazionale, che si può anche definire, non è un'astrazione. Cioè è un fatto tecnico proprio anche. in qualche modo. È un fatto profondamente linguistico, quindi sì, è profondamente sì, culturale. Sì. No, appunto, dicevo tecnico culturale, nel senso che si sa come farle. Ecco. Sì. Senta, dottor Tozzi, lei con pochissimi altri produttori italiani, però è protagonista di un rilancio di queste serie TV con un respiro internazionale, che hanno quelle caratteristiche che diceva lei, tipo Gomorre, Medici, Young Pop, eccetera. Resta comunque certamente una lotta molto impari con gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Cosa dovrebbe fare che non fa l'Italia per poter competere più strutturalmente su questo mercato globale? Ma dunque, la lotta non è più così impari. Basti fare una riflessione, che mentre quando noi facciamo un film lo facciamo a un budget medio di, se va bene, 3-4 milioni e sì, competiamo con film americani che ne costano 100-120, esatto, quindi siamo animali di specie diversa. Sì. Quando facciamo delle serie, oggi lavoriamo a livelli di costo e di valore produttivo che sono comparabili a quelli internazionali, per cui non abbiamo un deficit competitivo da quel punto di vista e siamo piuttosto bravi a farle. Cioè, lei dice, abbiamo lei dimostrato, lei noi dice, possiamo giocare ad altissimo livello sul mercato internazionale con la serialità. Cioè la serialità, un episodio della serialità italiana come costa come un episodio di serialità internazionale, dice? Ma no, non come, ma per dire può costare sotto la linea il 60%, il 70%. Ce la giochiamo, non è la situazione di inferiorità totale che si ha nel cinema. Nel cinema, senta, ma secondo lei su che tipo di storie dovremmo puntare prevalentemente, a parte la mafia, la storia, il Vaticano, insomma i classici temi italiani? Ma più che sul tipo di storie, mi riferisco sempre al linguaggio e direi che il genere è il linguaggio internazionale oggi. Siccome noi italiani il genere l'abbiamo frequentato col nostro cinema e molto bene negli anni 70, ripercorrere quelle strade là è una via, non dico sicura, ma insomma piuttosto chiara. Cioè la via italiana alla lunga serialità è tracciata in questo modo? Insomma, diciamo che il genere è un riferimento abbastanza solido, poi sì, naturalmente si potrà anche svariare, però certo, siccome siamo abbastanza agli inizi, certo, quel riferimento là è un riferimento molto utile. Senta, il governo Renzi ha fatto una legge di sostegno all'audiovisivo, oltre alla al tax credit, cosa si può fare di più o si dovrebbe fare di più? Ma il tax credit è già uno strumento molto importante, è stato certo, orientato per quel che riguarda la serialità, l'internazionalizzazione e la titolarità dei diritti, quindi va nella direzione giusta. Direi sì, che le strozzature in Italia, come purtroppo in tutta l'economia del nostro paese, è che la dimensione industriale, cioè la quella dimensione è troppo piccola, certo, è piccola e si sente. Già la quelle società che hanno un minimo di dimensione sono addirittura criticate perché troppo grandi, cioè una certo, specie di tendenza suicida, al contrario, al suicidio, certo, quello è il limite, è il vero, vero problema, un provincialismo nell'approccio mentale. Ma all'industria, cioè, Togliatti lo chiamava romanticismo antiindustriale. Ecco appunto. Ma secondo lei questi produttori che invece hanno una dimensione semi possibile riusciranno a restare italiani o dovranno per forza fondersi con realtà multinazionali per sopravvivere? Se il contesto italiano rimane quello che è, e io penso che rimarrà quello che è, la combinazione, fusione, associazione è indispensabile, o addirittura cessione sì, all'estero sarà inevitabile. I francesi, come fanno shopping nella moda, nel lusso, eccetera, certo, faranno shopping. Noi siamo imprenditori migliori dei francesi in tutta questa ma siamo area. Siamo degli artigiani in vendita, insomma, ma sostanzialmente. Siamo funestati dalla piccola dimensione. Loro hanno la grande dimensione, non hanno la creatività, quindi è normale che vengano a comprare noi. Appunto, artigiani in vendita in qualche modo. Purtroppo sì, non è una bella cosa. No, non è bella. Negli Stati Uniti, negli anni 90, si producevano 80 serie TV l'anno, nel 2006 200, nel 2016 quasi 500, più un centinaio europee. Ecco, è vero che sono diventate tante le piattaforme, ma il mercato può assorbire tutto questo il prodotto o c'è il rischio di una bolla? Ma effettivamente la dimensione della crescita è impressionante, sì, e può esserci anche una componente di bolla. però l'eventuale sgonfiamento della bolla vorrebbe semplicemente dire che si seleziona la qualità, quindi certo. si perde la parte un po' più vecchia e un po' più copiata, diciamo, sì. E emergono le dimensioni di eccellenza, che sono tante comunque. Senta, ma per affrontare il mercato globale è necessario fare investimenti anche sui talenti, sulle professionalità, autori, registi, attori, sceneggiatori, ma anche sulle maestranze. Ecco, l'industria cosa deve fare per far crescere questo patrimonio? Ma direi che la strozzatura fra tutte, diciamo, i fattori della produzione, probabilmente dove si sente ancora una strozzatura è sugli sceneggiatori. Più internazionalizzazione. C'è da dire una cosa, che in Italia la formazione non c'è. Certo. Sono tutti autodidatti. Israele è un paese di 6 milioni di abitanti, sì. Ci sono 16 scuole di alto livello di sceneggiatura. Noi alla fine ne abbiamo una. Una. A Milano, certo. È assolutamente assurdo, certo. E non è possibile, cioè noi dobbiamo investire più nella formazione di tutti, certo. Ma nella scrittura soprattutto. Senta, c'è sempre un maggior travaso in queste piattaforme, quindi nel modo di consumare televisione, negli ascolti, dalla fruizione lineare tradizionale a quella on demand. Ecco, la TV generalista con un palinsesto fisso vivrà ancora a lungo o sarà rapidamente ridimensionata? Ormai sono parecchi anni che si annuncia la morte della televisione generalista. Però non c'è mai. Tutto sommato ci sembra ancora in buona salute. e anche con un contributo specifico. Certo, si vede una certa forma di convergenza, cioè le piattaforme tendono a allargarsi verso un prodotto più generalista e le televisioni generaliste tendono a spingersi verso un prodotto un po' più di punta. Infatti. Quindi vedo una reazione abbastanza vitale da parte delle generaliste, della Rai. Beh, infatti, se uno pensa a fenomeni di ascolto come, non so, Montalban, Magic, insomma, da questo punto di vista effettivamente fanno riflettere sul fatto che si parla di grandi cali, ma poi invece si deve parlare di grandi numeri. Assolutamente sì, tra l'altro l'Italia è il paese in Europa continentale almeno dove la gran parte dei successi di fiction sono fiction nazionali, certo. Non esiste nessun altro paese in Europa in cui nei primi 20 ce ne sono 19 italiani, 19 locali. Cosa vuol dire secondo lei? Secondo me vuol dire che in un modo o nell'altro, a vari livelli e con tutte le riserve del caso, ma è un mestiere che sappiamo fare. 800240024, numero verde 349-238-6666, sms. Mario, insomma, alla fine che i contenuti vinci, però i piccoli saranno mangiati dai grandi. Sì. Perché non siamo capaci neanche di fare squadra su questo. Sì, è così. Il problema è la dimensione. Solo una battuta. Sì. Il vero pericolo non è per l'entertainment che troverà via è in pericolo il giornalismo. E infatti di questo parliamo con Michele Anzaldi, che è deputato PD, membro della commissione di vigilanza della RAI. Onorevole Anzaldi, abbiamo sentito, insomma, sulla fiction, buongiorno intanto. Buongiorno. Sulla fiction c'è qualche speranza sul piano dei contenuti, in realtà anche se i piccoli fanno la guerra, quelli appena un pochino più grandi, quindi il rischio di essere poi alla fine comprati tutti, è lì dietro l'angolo e addio Made in Italy. Detto questo, il vero problema è l'informazione. Lei è membro della Commissione Vigilanza della RAI. La RAI, di fronte a tutto quello che abbiamo sentito, allo Zuckerberg che avanza, non ha neanche un piano dell'informazione, perché lo doveva fare, chi lo doveva fare se n'è andato. E non se ne parla più, ma è normale? Non è normale, e non solo l'informazione che è un dovere e che è, diciamo, l'emergenza di adesso. Tenga presente che dopo il caso degli Stati Uniti che avete citato voi, adesso la Francia che si accinge alle elezioni, pochi giorni fa ha fatto, grazie a Le Monde e a un altro gruppo di giornalisti, l'accordo ad esempio con Google e Facebook per cercare di arginare le fake news sulla campagna elettorale. Naturalmente. Noi su questo siamo a zero. Tenga presente che noi siamo davanti, secondo me, a un cambiamento epocale, cioè è veramente una cosa che inarrestabile. Allora, su questo dovremmo mettere i migliori cervelli e lavorarci per capire proviamo da giornalisti a mettere un po' di numeri. Oggi in Italia, io parlo solo di quelli in lingua italiana, vengono fatti circa 2 milioni e 200 mila tweet al giorno, ossia ogni minuto ci sono, circa 2 mila tweet al minuto, solo su Twitter. Poi c'è Facebook che i post sono circa 6 milioni al giorno, quindi un essere umano non ce la può fare. Esatto. A visionarli, a controllarli, però nello stesso tempo sappiamo che ormai la notizia sta lì. Sta lì e noi con i big data e gli algoritmi dell'informazione siamo fermi. Siamo fermi, ma allora cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbe un investimento e potremmo diventare i primi al mondo per capire come fare, dove trovarli, come selezionarli e come non fare. Senta, noi abbiamo, onorevole Ansaldi, abbiamo 2 miliardi di euro che gli italiani pagano per il canone, ecco. Non può la RAI recuperare il ruolo di avanguardia proprio in questa direzione? Abbiamo anche 1700 giornalisti e siamo gli ultimi. Ma non lo so, veda lei. Ma secondo me lo deve fare. E le dico pure che se lei conosce le remunerazioni di questi scienziati del settore, che spesso sono i compagni di scuola dei nostri figli, sono ragazzini, certo, di 20-24 anni, e sono ben lontani dai famosi stipendi delle star di cui noi stiamo discutendo da 15 appunto giorni. Esattamente, quindi forse proprio, è proprio una mancanza di prospettiva profonda che genera questo immobilismo. C'è la progettazione, non c'è. Noi abbiamo, le dico, in Francia l'ha fatto Le Monde ed è un giornale che deve fare i conti, lo fa per una questione di democrazia. Noi avremmo bisogno, perché tutti gli altri come il suo giornale ad esempio devono fare i conti col mercato, con l'economia, noi abbiamo invece un'azienda dove gli italiani, passandosi in un momento difficile, alla fine gli danno 2 miliardi, come dice lei. Quale migliore occasione hanno per investire e diventare leader europei, oppure avere appunto, tra le altre cose l'Italia è pure avanti in questi studi, l'Italia, ecco, però ha fatto un'applicazione col famoso semaforino, sulla veridicità eccetera, c'è un'altra agenzia che si sta inventando, sta lavorando sul giornale che è fatto solo attraverso i big data. Noi non siamo indietro su questo, siamo avanti, certo. Siamo avanti, ma questo essere avanti non diventa mai patrimonio del servizio pubblico. Cioè noi, per essere concreti, il direttore generale precedente, Gubitosi, aveva fatto un piano, bello, brutto, comunque è stato approvato, è andato in consiglio di amministrazione, è andato alla commissione parlamentare, è stato approvato. Sono arrivati questi nuovi, li hanno buttato via perché ne facevano uno migliore, bene, meglio, non ne hanno fatto più nessuno. Quello che hanno fatto, chi l'ha fatto, se n'è andato e lì è finito tutto. Ma è possibile rinnovare una convenzione in esclusiva con la RAI in assenza di qualsiasi indicazione sul chi è, perché, per fare cosa? Mi scusi se la contraddico. Mi contraddica. Tutto sarebbe bello, perché quello precedente garantiva un risparmio di 70 milioni. Vabbè, ben quello dicevo. E quindi noi abbiamo buttato più di 100 milioni, sa quanti progetti avremmo fatto su Facebook e Google? Sono d'accordo, per questo non sto solo dicendo. Lei guardi a Malta quanti microfoni c'erano dietro al presidente Gentiloni. E senza nessuna specializzazione, si va su una cosa, il viaggio all'estero si fa con una cosa che si chiama lodo gubitosi, cioè una specie di sorteggio, a chi è andato, cioè è la vacanza all'estero, non è la specializzazione, non è... Sì, ma voi non siete neutri rispetto a questo problema, siete la commissione parlamentare di vigilanza, quindi siete in tanti, quindi non è che avete tutte le stesse idee, però il servizio pubblico, diciamo per semplificare, è minacciato dalla complessità tecnologica e non reagisce. Per la politica va tutto bene così? No, non va bene, guardi, io più di quello che faccio, lei è l'unico che mi spinge a fare di più, io lo raccolgo. Io addirittura ho detto che se continua così, perché continua così e va sempre peggio, io ne sarò assente il giorno del rinnovo della concessione e io non so più che fare. Io siamo in un posto dove la RAI va così, l'Agicom, che sarebbe quella che dovrebbe vigilare su disinformazioni eccetera eccetera, non risponde agli esposti. Io ho fatto un esposto a giugno che mi è costato una fatica notevole. Ecco, però io le faccio una domanda. Non mi risponde, non mi dice neanche se è archiviato o no. Niente. Quindi manca tutto. Manca. Ecco, Ecco, però tutto. Io le faccio una domanda che è politica e anche partitica, onorevole. Perché Renzi non ha voluto fronteggiare lo strapotere dei titani di internet? È risultato che adesso anche lui in qualche modo ne è divorato. Basta vedere cosa sta succedendo sulla vicenda Consip. In rete circolano cose che probabilmente sono molto più false che vere. Però non è stato un grande errore mettersi dalla parte di chi veicola le fake news come se fossero il totem da secondare? Però guardi, Renzi secondo me è stato uno di quelli che si è tenuto più lontano dalla televisione, è stato uno di no ma che... io non ho detto un'altra cosa, l'ha capita benissimo, io l'ho sentita male, per no, dicevo no, Renzi si è messo dalla parte dei grandi, come dire, dei titani di internet. Basta vedere la web tax, la guerra che ha fatto alla web tax, eccetera. Cioè, in realtà ci ha consegnati e adesso ne paga anche lui le conseguenze. Allora, Renzi, come lei sa, non abbiamo vinto le elezioni in maniera netta. Siamo un governo di coalizione, quindi abbiamo dovuto mediare sulla web tax presentata da un renziano e poi accantonata. C'è stato un compromesso. Sa, noi ogni giorno per approvare a colpi di maggioranza quelle cose che purtroppo grazie alla RAI gli italiani neanche ricordano più, siamo scesi a compromessi. Ma se lei vede, la web tax nasce da un renziano e no, poi... nasce da un renziano, ma viene uccisa da Renzi. Come lei sa. Perché le sto dicendo un governo di compromesso. Le racconto, Renzi si è preso come portavoce uno di quelli all'avanguardia su questa cosa. Vabbè, d'accordo. Se sì. Nel 2012, per dirle, adesso parliamo delle notizie che vengono dal basso e non dall'agenzia e non dall'alto delle, sì, delle agenzie come era prima. Nel 2012, quando nella notte è morto il presidente Scalfaro, uno dei pochi che lo ha saputo prima fu questo blogger famoso in Italia che si chiama Nonfuk. Lui, che di mestiere come me faceva l'addetto stampa, non l'ha detto al collega dell'Ansa. Certo, okay, che no, l'ha detto, l'ha messo sulla rete, certo. L'ha messo sulla rete, sì. E l'Ansa arrivò ben un'ora e mezza dopo, perché l'Ansa ha una serie di cose e che quindi deve è la prova, è la prova provata, deve fare i controlli. No, ma è la prova provata che si possono circolare notizie, in questo caso vere e altre false, senza nessun controllo. Mario, così no? Purtroppo è così, il ritratto del settore nostro è quello di una specie di morto che sta per entrare nella bara se non facciamo qualcosa, purtroppo. Ecco, io le faccio un'ultima domanda, però tra poco, l'abbiamo detto all'inizio ma lo voglio ripetere, approverete la concessione in esclusiva alla RAI del servizio pubblico, ma con quali impegni rispetto alle cose che abbiamo detto? Come sa, ancora non è arrivata la bozza. No, la d'accordo, bozza, ma insomma... deve arrivare adesso a Palazzo Chigi. Io mi auguro che, ad esempio, dopo questa sua intervista, questa sua trasmissione di oggi, se non vi è dentro la bozza, Giacomelli, Calenda la possano aggiornare e cercare appunto di arrivare almeno dove già in Francia sono arrivati in campagna elettorale. Ecco, bene. Grazie onorevole Ansaldi, buon lavoro. 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 per gli SMS. Pubblicità. Mix 24. Allora Pietrangio, che ci fai sentire oggi? Ho lasciato troppi segni sulla pelle già strappata. Non c'è niente che si insegni prima che non l'hai provata. Sono andato sempre dritto come un treno. Ho cercato nel conflitto la parvenza di un sentiero. In metropolitana s'attardavano matite cicciotte rosso e blu, prendevano posto tra i pendolari tutti in anticipo sulle corse per schivare lo sciopero di oggi, e nella corsa di ritorno sedevano invece i quaderni, i taccuini, i fogli sparsi, mentre in superficie i controllori prendevano nota delle correzioni. Ha chiamato Ennio Flaiano, ha voluto questo brano per Federico Fellini con un messaggio: ecco il mio unico diario, tutto di errori. Da tutte le mie contraddizioni, da tutti i torti e le ragioni, dalle paure che convivono con me, alle parole di un discorso inutile, almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori. Ho giocato con il fuoco e qualcuna l'ho anche vinta, ma ci è mancato poco, Mario, mi giocassi anche. Ecco, allora... Volevo andare in America, però no, scusa, io ti dico una cosa, qui sì, ci scrivono delle cose vere, sì, la Rai ha i contenuti, Rai Play è assolutamente all'avanguardia in Italia, è vero, però sì, è un contenuto, è un è chiuso, e chiuso. Quindi, il vero tema è che Rai Play è una bella, è un'ottima cosa, è una bella piattaforma, però è chiusa, è in un mondo aperto. Insomma, si può cominciare a discutere almeno di questo. Ma anche Radio Rai è molto meglio di tanti altri contenuti, di tanti altri siti, anche del nostro, diciamo, sì, la verità. Però questo non vuol dire niente, no, rispetto al discorso che abbiamo fatto. Il problema si chiama distribuzione. Cara Ilaria, sappiamo di cosa parliamo. Purtroppo chi ha in mano la distribuzione governa il mercato. Da che mondo è mondo? Cioè, questo no, è un concetto che non cambia. No, ma poi anche sulla web tax è la confusione. Dice, non si può fermare un fiume con le mani. Ma non si parla di quello, si parla di far pagare le tasse. Pagare le tasse. Noi le paghiamo tutti, loro no. Devono pagarle. E si chiama concorrenza sleale poi nello stesso settore. Cioè gli editori cosiddetti tradizionali che sbarcano sul digitale si trovano di fronte non solo a un oligopolio di mercato, ma a un dumping fiscale di fatto. Esatto, che, è quello il vero problema. Che blocca qualsiasi sviluppo. Cara Ilaria, cioè, se ci ascolti bene, vedi che do solo un numero. Oltre il 60% delle risorse dell'advertising digitale oggi sono in mano a due soggetti, e sono Google e Facebook. Infatti, allora, fate un po' voi conti e vedete bene, che cosa però succede. Questi sono i fatti. Purtroppo mi fai la tua bolla? Absolutely. Vai. Ornette Coleman. Allora, sì, volevo andare in America, però ti dico una cosa, perché è uscito un dato che secondo me è molto importante. La produzione industriale in Germania a gennaio ha fatto più 2,8. E in febbraio non era andata bene. Questo è un segno molto positivo per l'Europa. Tieni presente poi che tutti i mercati sono cauti perché stanno aspettando la riunione, gli esiti di una riunione della BCE, dove non ci saranno decisioni, però si capirà che cosa fanno poi con il quantitative easing in qualche maniera. Cioè emergerà sempre di più il dibattito tra Germania e gli altri paesi, soprattutto Mario Draghi, che ha fatto questo programma di acquisto di titoli di Stato. L'altra cosa interessante è tenere d'occhio che cosa succede nel Dipartimento del Commercio americano, da osservare con molta attenzione quello che fa Wilbur Ross. Negli ultimi 5 giorni ha messo sanzioni a un gruppo di telecomunicazioni cinese, la ZTE, per oltre $1 miliardo. Poi ha guardato i numeri della bilancia commerciale americana e ha detto c'è molto da fare, dobbiamo rinegoziare tutti questi trattati. In effetti i dati di gennaio non sono buoni per il commercio americano. Hanno un deficit commerciale di $48 miliardi. Inutile dirvi che la parte del leone la fa la Cina, ma attenzione, per quello che l'ho citato all'inizio, alla Germania e all'Unione Europea, che gli Stati Uniti considerano, come dire, poco fair, poco certo, giusta, esatto, poco equilibrata, e sulla quale hanno promesso di intervenire, tant'è che l'altro ieri ci sono state dichiarazioni della Casa Bianca sempre in questo senso. Quindi è in corso, diciamo, una guerra commerciale nella quale noi siamo in mezzo. Ricordo che tra l'altro noi comunque il nostro export con gli Stati Uniti va bene, quindi dobbiamo stare attenti, ma non mi pare che stiano pensando a questo. Stiamo pensando alle primarie del PD, praticamente tutta l'Italia ferma su quello, ma insomma. Pietrangelo Salamino. Guarda la madre, sposa la figlia. Nicolas Sarkozy, l'ex presidente della Repubblica Francese, rinuncia alla rivincita, alla corsa all'Eliseo e vola a Torino. Vola dalla suocera Marisa, donna Marisa, al cospetto di tutti i bruni tedeschi. Questo sì che è femminismo, invece dei bla bla. tutta questa discussione sul movimento incisivo e popolare del femminismo alternativo alla cultura populista. Che volgarità! Che volgarità? Certo, è la volgarità del calpestio di mimose in marcia. Ma volete mettere in confronto all'inarrivabile chic di una serata esclusiva? La presentazione a Torino di Care figlie, vi scrivo. Care figlie, vi scrivo la lunga confessione autobiografica di Marisa Bruni Tedeschi alle figlie Carla Bruni, moglie di Sarkozy, e Valeria, l'affascinante attrice Valeria Bruni Tedeschi. E questo sì che è femminismo. E oggi, 8 marzo, la data non può avere altra celebrazione. Altro che, poveretto, la crisi del centrodestra, il vertice con Juppé e Fillon. Insomma, che... Che volgarità! Una volgarità inenarrabile invece alla Fondazione Sandretto Reba Udengo, altro che il pulcioso ideologismo della retorica, l'ex presidente di Francia, sempre più simile a Louis de Funès, si ritrova seduto tra la moglie Carla, la cognata Valeria, e assapora la dolce tirannia della suocera, che è stata anche compagna di viaggio in tante occasioni ufficiali, non fosse altro perché la signora dava le giuste indicazioni di bon ton. Per esempio ha spiegato a De Funès, cioè a Sarkozy, come regolarsi davanti alla regina d'Inghilterra a Windsor, al castello, oppure fare tesoro delle delusioni. La signora voleva preparare la bagna cauda a Sonia Gandhi, ma ha risposto: non sono più piemontese, ma indiana, oppure con Benedetto XVI, che non la voleva donna Marisa presente alla visita di Stato perché a suo tempo Carla e Nicolà non erano ancora sposati. Nicolà disse: sarà per un'altra volta. E per tutte le altre volte cosa ci resterà, 8 marzo a parte? Il grande Fiorello. Una mattina. Je suis parti. Sì, da Parigi. Sono partito da Parigi. Perché ci vive a Parigi, all'Italia non ci vengo mai, neanche se sono italiano. No, ecco, non ci viene. Perché mai. Dire che sei italiano è molto volgare. Volgare, sì. Allora ci sono arrivato in Italia. Sono arrivata in Italia. Di come va dalla barriera di Milano. Sì, Melignan. Melignan. Esatto. E allora. Sì. Je vais la corsia del Télépas. Sì, quella corsia del Télépas. Ma montre, je vais. Sì, mentre dalla corsia. Sì. Sì. Vabbè, Mario, c'è ancora una bolla? Sì. Beh, James Brown, Funky President, bello. Oh, Giovanni, c'è un consiglio europeo, lo so che tu non vedevi l'ora di parlarne. Sicuramente, cambierà la storia. Cambierà la storia? No, non la cambierà, posso garantire. Però Gentiloni va oggi in Parlamento, allora... Sarebbe il caso di chiedere al Presidente del Consiglio, ammesso che qualche parlamentare abbia ancora la testa, diciamo, attaccata non solo al collo ma con i neuroni tutti accesi, come mai un vertice a quattro senza consultare i parlamenti decide che si fa l'Europa a due velocità? A me sembra una decisione piuttosto storica, cioè senza fare un passaggio in Parlamento, un po' così, un po' osè, diciamo. Non trovi, Giovanni? Gli altri 20 quanti ne restano? 22? Che fanno? No, ma poi, cioè, voglio dire, facciamo, certo, l'Europa a due velocità, quindi significa cambiare l'architettura europea, certo, e il Parlamento italiano non viene così neanche sfiorato dall'idea che fosse il caso di discutere informato prima. No, ma soprattutto non è una decisione che passa per la sovranità del governo. Chissà, questa è una decisione che prendono se i parlamenti. Oggi chiedono notizie a Gentiloni. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms, pubblicità. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Mix 24. Sono fra coloro che pensano che la scienza abbia una grande bellezza. Uno studioso nel suo laboratorio non è solo un tecnico, è anche un bambino messo di fronte a fenomeni naturali che lo impressionano come una fiaba. non dobbiamo lasciar credere che ogni progresso scientifico si riduca a dei meccanismi, a delle macchine, degli ingranaggi, che pure hanno anch'essi una loro bellezza. Io non credo che nel nostro mondo lo spirito d'avventura rischi di scomparire. Se vedo intorno a me qualcosa di vitale, è proprio questo spirito d'avventura che mi sembra impossibile da sradicare e che ha molto in comune con la curiosità. È la grande bellezza della scienza, secondo Maria Slodowska, da tutti conosciuta come Marie Curie. La prima donna a insegnare alla Sorbona, l'unica persona a ricevere due premi Nobel in due diverse aree, per la fisica e per la chimica. Nata in Polonia, a 21 anni entra per la prima volta in un laboratorio e a 24 si trasferisce a Parigi. Subito notata come studentessa, le vengono assegnati i primi incarichi e 5 anni dopo l'arrivo in Francia inizia a studiare le radiazioni dei minerali. È lei che per la prima volta parlerà di radioattività. Diventava necessario trovare un termine nuovo per definire la proprietà manifestata dagli elementi uranio, polonio e radio. Proposi la parola radioattività. Dopo la morte del marito Pierre Curie, le viene assegnata la cattedra alla Sorbona. A poco più di 40 anni, Marie Curie è uno degli scienziati più importanti del suo tempo. Oggi è l'8 marzo, per la festa delle donne, appunto, dedichiamo la puntata della storia a Marie Curie, pioniera e scienziata, esempio di donna di successo. Adesso con il professor Roberto Bernabei, come sempre, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Science, gennaio 2017. I volatili necessitano di fare esercizio prima dei loro epici voli? Ogni anno le oche fanno delle migrazioni definibili epiche. Fatevi voi 3.000 km tra Mongolia ed India, superando l'Himalaya, tanto per capirci. L'ipotesi e la domanda che si sono fatti i ricercatori è se questi uccelli hanno bisogno di allenarsi, come toccherebbe a noi se dovessimo fare un esercizio fisico così intenso, continuativo, in breve tempo. E allora gli sono stati applicati dei piccoli congegni che misuravano la temperatura del corpo e la frequenza, tutte due cose che si sa aumentano quando ci si allena o quando si fa appunto uno sforzo preparatorio. Benissimo, la risposta è assolutamente negativa. Nessuna attività maggiore nelle settimane precedenti la transvolata migratoria ed evidentemente gli uccelli sono costruiti meglio, sono capaci di far arrivare maggior ossigeno nei loro muscoli e far battere il cuore più velocemente per bilanciare l'aumentata altitudine a cui volano senza esercizi precedenti. E per chiudere oggi, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi non si spiega perché continua a dire ancora sì. Andiamo Palma, Testarda io. La mia solitudine sei tu, la mia rabbia vera sei sempre tu. Ora non mi chiedere perché, se a testa bassa vado via per ripiccare senza te. Salverei e dei tuoi miti cosa ne farei. Intanto porto i segni dentro me di un amore che oramai vive vuoto dentro me.